E poi tutto era finito. Avevo interrotto le mie uscite mattutine e con tanta facilità da trarne l'auspicio, destinato, come si vedrà, a rivelarsi erroneo, che mi sarei abituato senza fatica, nel corso della mia vita, a non vedere più una donna. E quando in seguito Françoise mi raccontò che Jupien, interessato a ingrandirsi, cercava un negozio nel quartiere, io, pervaso dal desiderio di trovargliene uno, e felicissimo anche, mentre gironzolavo per la strada dalla quale, già standomene a letto, sentivo salire uno strepito luminoso come da una spiaggia, di occhieggiare, oltre la saracinesca sollevata delle latterie, le piccole commesse dalle maniche bianche, avevo potuto riprendere le mie passeggiate, con piena libertà del resto, perché ero ben conscio di non farle più al solo scopo di incontrare Madame de Guermantes. Come una donna che prende infinite precauzioni, fin tanto che intrattiene una relazione, e poi, già dal giorno della rottura con l'amante, lascia in giro le sue lettere, a rischio di svelare al marito il segreto di una colpa di cui ha finito d'aver paura nello stesso momento in cui ha smesso di commetterla. Quello che mi addolorava era a scoprire che quasi tutte le case erano abitate da gente infelice. Qui la moglie piangeva di continuo perché il marito la ingannava. Là si invertivano le parti. Altrove, una madre laboriosa, massacrata di botte da un figlio ubriacone, cercava di nascondere la propria sofferenza agli occhi dei vicini. Una metà del genere umano era in lacrime, e quando la conobbi, la trovai così esasperante che mi chiesi se non fossero il marito e la moglie adulteri, che tali erano soltanto perché era stata loro negata la felicità legittima e si dimostravano incantevoli e corretti con tutti, tranne che con la moglie o il marito, ad avere ragione. Presto non ci fu più neppure la motivazione dell'utilità Jupien che potesse giustificare le mie peregrinazioni mattutine. Si venne infatti a sapere che l'ebanista del nostro cortile, il cui laboratorio era separato dal negozio di Jupien mediante un sottile tramezzo, stava per ricevere la disdetta dall'amministratore perché faceva troppo rumore. Jupien non poteva sperare di meglio. Il laboratorio aveva un sotterraneo per il legname e questo sotterraneo comunicava con le nostre cantine. Jupien ci avrebbe messo il suo carbone. E fatto abbattere il tramezzo, avrebbe avuto a disposizione un unico spazioso negozio. Anzi, siccome Jupien, giudicando esoso l'affitto chiesto dal signor di Guermantes, permetteva che altri visitassero il locale perché il duca, scoraggiato dal non trovare inquilini, si rassegnasse a fargli uno sconto, Françoise, avendo notato che il portiere lasciava sulla porta del negozio il cartello "Affittasi anche dopo l'orario delle visite", fiutò una trappola escogitata dal portiere per attirare il lacchè de Guermantes e la sua fidanzata, i due vi si sarebbero dati convegno come in un nido d'amore, e coglierli in flagrante. Comunque fosse, e pur non dovendo più cercare il negozio per Jupien, continuai a uscire prima di colazione. Spesso, durante quelle uscite, incontravo il signor di Norpois. Capitava che, intento a conversare con un collega, egli posasse su di me degli sguardi che, dopo avermi esaminato da capo a piedi, tornavano a volgersi verso il suo interlocutore senza avermi sorriso o salutato più di quanto avrebbe fatto se non m'avesse per nulla conosciuto. Da parte di diplomatici di quel calibro, infatti, guardarvi in un certo modo non ha lo scopo di segnalarvi che vi hanno visti, bensì che non vi hanno visti e che devono parlare con il loro collega di argomenti seri. Una donna alta, che incrociavo spesso vicino a casa, era con me assai meno discreta. Sebbene non la conoscessi, si voltava verso di me, mi aspettava inutilmente davanti alle vetrine dei negozi, mi sorrideva come se stesse per baciarmi, abbozzava il gesto d'abbandonarsi. Riprendeva nei miei confronti un contegno glaciale se incontrava qualche persona di sua conoscenza. Da molto tempo ormai, per le mie commissioni del mattino, a seconda di quel che avevo da fare, fosse anche acquistare il più insignificante dei giornali, sceglievo la via più diretta, senza alcun rimpianto, se non coincideva col percorso abituale seguito dalle passeggiate della duchessa, e al contrario se lo intersecava senza scrupoli né dissimulazioni, perché non mi sembrava più la strada proibita lungo la quale strappavo a un'ingrata il favore di contemplarla a suo malgrado. Ma non avevo pensato che la mia guarigione, consentendomi nei confronti di Madame de Guermantes un atteggiamento normale, avrebbe prodotto parallelamente le stesse conseguenze per quanto la concerneva, rendendo possibili un'amabilità, un'amicizia, di cui non mi importava più nulla. Fino a quel momento, gli sforzi congiunti del mondo intero per avvicinarmi a lei sarebbero naufragati di fronte alla cattiva sorte proiettata da un amore infelice. Fate più potenti degli uomini hanno decretato che, in questi casi, niente potrà servire finché non avremo pronunciato sinceramente in cuor nostro la frase «Non amo più». Avevo provato rancore per Saint-Lieu che non m'aveva condotto da sua zia, ma nemmeno lui era in grado, più di chiunque altro, di spezzare un incantesimo. Fintanto che amavo Madame de Guermantes, i segni d'attenzione che ricevevo dagli altri, i complimenti, mi facevano male, non solo perché non venivano da lei, ma perché lei non ne veniva informata. Ebbene, quando anche li avesse saputi, non mi avrebbero certo giovato, mentre, persino nei particolari di un rapporto affettivo, un'assenza, il rifiuto di un invito, una durezza involontaria, inconsapevole, servono più di qualsiasi cosmetico e degli abiti più eleganti. Se in questo senso si insegnasse l'arte d'aver successo, ci sarebbe anche qui gente di successo. Attraversando il salotto dove ero seduto, la testa piena del ricordo di amici che io non conoscevo e che lei forse avrebbe ritrovato fra poco a un altro ricevimento, Madame de Guermantes mi vide sulla mia bergère un indifferente autentico che cercava soltanto d'essere gentile, mentre quando l'amavo avevo tanto cercato, senza riuscirci, di assumere un'aria d'indifferenza. Venne, deviando verso di me e ritrovando il sorriso della serata all'Opéra, non più cancellato dalla penosa sensazione d'essere amata da qualcuno che non amava. «No, no, restate comodo. Permettete che mi sieda un momento accanto a voi?» mi disse, sollevando graziosamente un lembo della sua immensa gonna che altrimenti avrebbe occupato la bergère per intero. «Più alta di me», e resa ancora più imponente da tutto il volume del vestito, mi sfiorava quasi col suo ammirevole braccio nudo, sul quale una peluria impercettibile e innumerevole faceva aleggiare una sorta di perpetuo vapore dorato, e con la grande spirale bionda dei suoi capelli che mi investivano col loro profumo. Per mancanza di spazio, non le era facile girarsi verso di me, e, costretta a guardare dritto davanti a sé più che dalla mia parte, prendeva un'espressione dolce e sognante come in un ritratto. «Avete notizie di Robert?» mi chiese. In quel momento sopraggiunse Madame de Villeparisis. «Eccovi! È questa l'ora di arrivare, signore, per una volta che vi fate vedere?» E notando che stavo parlando con sua nipote e supponendo, forse, che fossimo più legati di quanto non le risultasse. «Ma non voglio disturbare la vostra conversazione con Orian», aggiunse, «giacché i buoni uffici della mezzana fanno parte dei doveri di una padrona di casa. Non verreste a pranzo mercoledì assieme a lei?» Era il giorno in cui dovevo pranzare con Madame de Stermaria. Rifiutai. E sabato? Poiché mia madre tornava sabato o domenica, sarebbe stato poco gentile non restare ogni sera a pranzo con lei. Opposi dunque un secondo rifiuto. Ah, non siete certo un uomo che si possa avere facilmente. Perché non venite mai a trovarmi? Mi chiese Madame de Guermantes una volta che Madame de Villeparisis si fu allontanata per complimentarsi con gli artisti e consegnare alla prima donna un mazzo di rose il cui unico pregio consisteva nella mano che l'offriva, giacché era costato appena 20 franchi. Era del resto la sua tariffa massima per chi cantava una sola volta. Quelle che prendevano parte a tutti gli spettacoli pomeridiani e serali ricevevano delle rose dipinte dalla marchesa. È seccante vedersi sempre e soltanto in casa d'altri. Visto che non volete pranzare con me da mia zia, perché non venite a pranzare da me? Alcune persone che si erano trattenute, con vari pretesti, il più a lungo possibile, ma che stavano infine andando via, vedendo la duchessa seduta a conversare con un giovanotto su un mobile così stretto che non vi si poteva stare che in due, pensarono di essere state male informate e che non la duchessa, ma il duca avesse chiesto la separazione per causa mia e si affrettarono poi a diffondere questa notizia. Nessuno meglio di me era in grado di conoscerne la falsità. Ma mi meravigliava che, in un periodo difficile come quello di una separazione non ancora conclusa, la duchessa, invece di isolarsi, invitasse proprio una persona che conosceva così poco. Mi venne il sospetto che solo il duca le avesse impedito di ricevermi e che, adesso che lui la lasciava, lei non vedesse più nessun ostacolo a circondarsi della gente che le piaceva. 2 minuti prima sarei rimasto sbalordito se mi avessero detto che Madame de Guermantes stava per invitarmi a farle visita, meglio ancora a pranzare da lei. Sapevo benissimo che il salotto Guermantes non poteva possedere le particolarità suggeritemi da quel nome, e tuttavia il fatto che mi fosse stato impedito di penetrarvi, costringendomi ad attribuirgli lo stesso genere di esistenza assunto ai nostri occhi dai salotti di cui abbiamo letto la descrizione in un romanzo o visto l'immagine in un sogno, faceva sì che, pur sapendolo con certezza uguale a tutti gli altri, io l'immaginassi del tutto differente. N'ero diviso dalla barriera che segna la fine del reale. Pranzare dai Guermantes era come intraprendere un viaggio lungamente desiderato. Trasferire un desiderio dalla mia testa al mio campo visivo. Fare conoscenza con un sogno. Almeno avessi potuto credere che si trattava di uno di quei pranzi cui i padroni di casa invitano qualcuno dicendogli «Venite, staremo assolutamente fra di noi», fingendo di attribuire al reietto il proprio timore di vederlo mescolato ai loro amici e cercando addirittura di trasformare in invidiabile privilegio, strettamente riservato agli intimi, la quarantena dell'escluso, suo malgrado ritroso e favorito. Al contrario, capì che Madame de Guermantes desiderava farmi gustare quanto di meglio avessi a disposizione, allorché, evocando davanti ai miei occhi la bellezza violacea di un arrivo in casa della zia di Fabrizio e il miracolo di una presentazione al conte Musca, mi chiese: «Non sareste libero venerdì per una cosa tra intimi? Sarebbe carino. Ci sarà la principessa di Parma, che è incantevole. In ogni caso non vi inviterei, se non fosse per stare con persone gradevoli». Trascurata negli ambienti mondani intermedi, soggetti a un moto perpetuo di tipo ascensionale, la famiglia svolge invece un ruolo di rilievo negli ambienti immobili come la piccola borghesia e come l'aristocrazia principesca, che non può tentare di elevarsi perché sopra di lei, dal suo speciale punto di vista, non c'è niente. L'amicizia testimoniatami dalla zia Villeparisis e da Robert aveva forse fatto di me, agli occhi di Madame de Guermantes e dei suoi amici, che vivevano sempre su se stessi e in un unico giro, l'oggetto di un'attenzione curiosa della quale non mi ero accorto. La duchessa aveva, di questi suoi parenti, una conoscenza familiare, quotidiana, volgare, ben diversa da quel che ci figuriamo e all'interno della quale, se ci capita di esservi inclusi, le nostre azioni, lungi dal venirne espulse come il granello di polvere dall'occhio o la goccia d'acqua dalla trachea, possono rimanere impresse, essere commentate, raccontate per anni, dopo che noi stessi le abbiamo dimenticate, nel palazzo dove ci stupiamo di ritrovarle come, in una preziosa collezione di autografi, una nostra lettera. Può darsi che persone comunemente eleganti debbano difendere la propria porta troppo assediata, ma quella dei Germant non lo era. Quasi mai un estraneo aveva occasione di passarci. Per una volta che alla duchessa capitava di vedersene segnalare uno, non stava certo a preoccuparsi del suo valore mondano, giacché si trattava di qualcosa che non avrebbe potuto ricevere, ma soltanto conferire lei stessa. Pensava piuttosto alle sue qualità reali. Madame de Villeparisis e Saint-Lieu le avevano detto che io ne possedevo, e di sicuro non ci avrebbe creduto se non avesse notato che essi non erano in grado di farmi accorrere al loro piacimento e che, dunque, io non tenevo al gran mondo, cosa che attestava per la duchessa l'appartenenza di un estraneo alla categoria delle persone gradevoli.